losing my beat. You just keep losing, you're losing. I'm alright. He's alright, he's alright. Yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, love, love, find me somebody to love, find me somebody to love, somebody, somebody. Ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. In ritardo più del solito, come ogni giovedì, torniamo con gli spacciaserie. Tommy, ci sei? Tommy. Eccomi. Eccomi, ci sono anch'io, sempre in ritardo come sempre. Perfetto. Intanto abbiamo già presentato il nostro ospite di stasera, che è Francesco. Buonasera a tutti. Tommy, tu che hai preparato tutta questa puntata, come abbiamo scoperto, di cosa parleremo? Parliamo di Dexter. Esatto, tu lo segui? Il cartone sì, il laboratorio di Dexter è uno dei miei cartoni preferiti. Guarda, l'ho scoperto oggi che esiste io. Battutona. Cioè, veramente triste come cartone, se lo vogliamo dire. No, dai, diciamolo, è triste. Come molto divertente, però. A parte questo, no, comunque seguo anche la serie. Bravo, se impari? Se impari. Un po' in ritardo, un po' indietro. Anche il nostro ospite, ognuno ha i suoi problemi, solo io sono in pari. Io da malato sono in pari. Tanto stasera non possiamo fare grossi spoiler. No. A proposito di grossi spoiler, c'è la novità, posso premere un tasto e parte... Questo sarebbe piaciuto tantissimo a Tommaso, perché lui, perché lui era particolarmente viziato con questa cosa. Pringeva il tasto e faceva partire... Tommy, no, tu non lo puoi fare. Io non vi sento, non lo sento. Mi dispiace, sono godurie che possiamo avere solo noi. Allora, io direi che per partire così lisci e recuperare un po' di tempo, mandiamo subito la sigla di Dexter. Quindi, attenzione, dura pochino, eccola qui. Yeah. tu papá tengo. Una cosa interessante che si potrebbe chiedere, che insomma di cui si potrebbe iniziare a parlare, è del motivo per cui Dexter diventa un serial killer di serial killer o in generale di assassini, perché per adesso abbiamo detto soltanto che è un serial killer che uccide, ma non abbiamo detto il perché uccide queste persone. Esatto, quindi io questa domanda che tu hai fatto giustamente la rivolgo, la giro al nostro esperto, perché? Il perché vero e proprio non possiamo dirlo perché sarebbe uno spoiler quasi del finale della prima stagione che poi spiega bene le dinamiche. Mm-mm. Possiamo dire che c'è stato un evento nella sua vita che l'ha condizionato e gli ha sbloccato qualcosa nella testa e aveva l'istinto a uccidere in generale. In generale. Okay. Il fatto che uccida serial killer è un'evoluzione che ha avuto non naturale ma con l'aiuto del padre. Cioè, del padre... Il padre adottivo. Mm. Ok. Il padre che l'ha adottato quando era piccolo. E è lui, diciamo, che ha fatto in modo che Dexter non fosse un serial killer normale, ma fosse appunto un serial killer molto particolare. Perché il padre era poliziotto. Perché il padre era un poliziotto. E quindi voleva evitare, avendo scoperto questo istinto del figlio... Voleva evitare appunto che il figlio finisse sulla sedia elettrica. Ok. E questo lo spiega in un dialogo sì, che abbiamo... Ci sono diversi spezzoni in cui analizziamo il rapporto con il padre. Ok, guardiamone il primo. Sì, ma nessuno in particolare. Hai mai avuto voglia di uccidere qualcos'altro? Insomma, qualcosa più grande di un cane? Sì. Come una persona? Sì, ma nessuno in particolare. E perché no? A te e alla mamma non sarebbe piaciuto. Vieni qui. E qui capisce che c'è qualcosa che non va nel figlio. E cerca di... Comincia, diciamo, a pensare a un modo per incanalare questa violenza. Esattamente, diciamo, per tenerlo al sicuro, tra virgolette. E quindi... Una cosa particolare è che il padre è morto, come lui stesso dice nel primo filmato che abbiamo sentito, i suoi genitori sono entrambi morti, quindi noi, diciamo, nella serie il padre lo vediamo attraverso dei flashback, in cui Dexter si ricorda di questi episodi. Sia attraverso i flashback che... Invece attraverso, diciamo, la visione del fantasma del padre che gli parla in alcune occasioni. Sì, a volte occasioni. Anche una presenza, diciamo, tra virgolette, fisica. Proprio. Sì, infatti cioè, a volte si vede lui che parla da solo visibilmente, però c'è sempre lo spettro del padre che si palesa e comincia a parlargli. Che gli fa da angelo custode, tra virgolette. Mm-hmm. Quando lui sta per oltrepassare quello che è definito il suo limite, appunto, poi ora non spieghiamo tutto. Invece nell'altro spezzone che tu ci hai portato, cosa spezzone possiamo... vediamo un altro frammento dell'infanzia di Dexter, di come il padre cominci a indirizzare, diciamo, i suoi istinti. Ho capito, quindi come imparare... Fermi, non vi muovete. Dexter, sorridevi? No. Allora ne facciamo un'altra e sorridiamo tutti, anche tu, Dexter. Come quando bruci le formiche. Non rompermi le palle, Dem. Dex, non dire quelle parole. Lei parla sempre così. Piantatela voi due. Dexter, vieni qui. Qual è il problema? Io odio la spiaggia, voglio andare subito a casa, non mi piace la sabbia. Non importa, fai parte di una famiglia. Se fai parte di una famiglia, devi sorridere nelle foto. Ma se non sono felice, perché? Per fare contenta tua madre. E perché devi imparare a fingere. Ricordi che ne abbiamo parlato? Sì. Così ci si comporta. Quando ti fanno una foto, sorridi. Non conta che tu sia felice o no. Fallo e basta. Prova a fingere. Va bene? Va bene. D'accordo. Ok. Vieni, tesoro. Bene. Tutti pronti? Un'altra volta. Stato fisso! Qui si vede come il padre insegna appunto a dissimulare, l'arte della dissimulazione, cercare di essere una persona normale per confondersi con le persone normali, esattamente. Esatto, ma tutto questo viene racchiuso in una, quello che possiamo adesso dirlo, sì, è il codice di Harry, appunto, esattamente, dove Harry è il padre. Harry Morgan è il padre adottivo di Dexter, che praticamente gli ha insegnato tutte queste regole, essendo lui poliziotto, ha insegnato i metodi della polizia e quindi anche come evitarli, come nascondere le proprie tracce. E tutte queste regole, tutte queste informazioni che Dexter ha ricevuto durante la sua infanzia se le ha, diciamo, immagazzinate in quello che lui chiama il codice di Harry, che sono praticamente il suo codice comportamentale. Ho capito. Ed è questo codice che gli impedisce di essere un serial killer come gli altri, cioè uccidere persone innocenti. Ho capito. Ma io una cosa che mi sono sempre chiesto, poi sarà che probabilmente sono stupido io, ma cioè, siccome io non ho tanta memoria, se le hai scritte da qualche parte oppure il codice è soltanto mnemonico, diciamo? Mi sembra sia mnemonico, non mi ricordo di aver visto mai un elenco fisico, diciamo. È un codice che conosce solo lui, dato dagli insegnamenti del padre. Ho capito, allora andiamo a guardarci quest'altro spezzone. Perfetto, è decisamente lui. Ora è solo questione di tempo prima che diventi una goccia di sangue nella mia collezione di vetrini. Ma devo stare attento e seguire le regole di mio padre, il codice di Harry. Ciao, papà. Ti posso spiegare? Avevamo un patto. Ogni volta che hai un impulso, vieni da me, me lo dici e l'affrontiamo insieme. Ma io te lo dico, papà. Al diavolo che me lo dici. C'è sangue su questo coltello. Animali. Io trovo gli animali, tutto qui. Sei sicuro? Mi stai dicendo la verità? Sì. Pensavo l'avessimo sotto controllo. Ancora non ricordi niente di prima. Prima che ti adottassimo. No. È per questo che ho gli impulsi. Quello che è successo ha cambiato qualcosa in te. Ti è entrato dentro troppo presto. Ho paura che l'impulso di uccidere diventerà sempre più forte. E sarò così per tutta la vita. Sei un buon ragazzo, Dex. Lo sei. Altrimenti non sarebbero stati solo animali. Ok, forse non possiamo fermare questa cosa. Ma forse possiamo fare qualcosa per incanalarla. Usarla per il bene. Come potrò essere un bene? C'è gente lì fuori che fa delle cose veramente brutte. Persone orribili. E la polizia non riesce a prenderle tutte. Capisci quello che sto dicendo? Stai dicendo che se lo meritano? Proprio così. Ma devi imparare come individuarli. Come coprire le tue tracce. Posso insegnartelo io. Papà. Sta tranquillo, Dex. Non puoi evitarlo ormai, ma puoi trarne il meglio. Ricordalo per tutta la vita. Tu sei mio figlio. Non sei solo e sei amato. D'accordo, d'accordo. poi qui ora finisce che sono sempre io quello che fa le domande. Ci piace così. Però, ok, fino adesso abbiamo detto che Dexter è un assassino, che il padre gli ha dato le regole, gli ha insegnato a fingere. Ma perché deve fingere? Cioè, che cosa è che lui non riesce a fare? Io, come al solito, siccome faccio l'ignorante qui in questo programma, giro la domanda all'ospite, Francesco. Non voglio fare niente. No, io non voglio di rispondere. Vai, vai tu. Lui deve fingere perché in realtà lui non riesce a provare nessuna emozione. Cioè, per lui l'amore, il dolore, non li prova. Tutte le emozioni che provano gli esseri umani normali, lui magari le comprende, però non riesce a provarle in prima persona. Sempre per questa cosa che non possiamo dire, che questa esperienza che ha avuto che l'ha cambiato. Ho capito, quindi lui sente soltanto questo istinto violento, incredibile, esatto. A uccidere. Esattamente. E però non gli altri azzerati. No, gli altri, infatti anche negli altri rapporti umani che lui ha, lui deve sempre fingere l'emozione, altri... Ho capito. Allora, noi per spiegare meglio tutto ciò, mandiamo come al solito un filmato in cui... Questo viene esplicato. Sogno. Sogno di galleggiare sulla superficie della mia vita, guardandola scorrere, osservandola. Sono l'estraneo che guarda dentro. Possono ridere e giocare. A loro viene così facile. Che fai? Sei rimasto fermo? Anche se non sono uno di loro. Anche se a volte posso essere un vero mostro. Dai, forza, partiamo! Oggi sono solo un mostro marino. Ci sono tanti buoni poliziotti a Miami. Molti sono qui oggi. Ma senza offesa non vi avrei fatto uscire con mia sorella. Ricky era diverso. Era il tipo d'uomo di cui speri che tua sorella sia. La morte era mette a disagio molte persone, ma io non sono come loro. È il cordoglio che mi mette in imbarazzo. Non perché sono un assassino, ma perché non riesco a capire tutta quell'emozione. Era sempre il primo ad aiutare i suoi colleghi. È qualcosa che non riesco a fingere. In questi casi gli occhiali da sole sono d'aiuto. Mac. Condoglianze. Ti ringrazio. È una cosa assurda. Inchioderete Guerrero. Lui ha ordinato questi omicidi. Puoi giurarci la pagherà quel pezzo di merda. Non sapevo che tu e Ricky foste amici. Non è per questo. Chi tocca un poliziotto non può rimanere in libertà. Non è così? Ben detto. Hai ragione. Siamo addolorati per la perdita del nostro collega. Era un uomo coraggioso. Ricky non sapeva cosa fosse la perdita. Ma la senti? Neanche lo conosceva, Simmons. Almeno sa che era un poliziotto. O sei stata tu a dirglielo? Apprezzo che tu sia qui. So che odi i funerali. Come ti senti? Abbastanza bene. No, invece, mantenere un'espressione triste sulla faccia per 2 ore è una fatica immane. Tutta una vita ridotta in cenere. Quella di Ricky Simmons è finita. Ok. E quindi è questo. E lui riesce a controllare le emozioni con difficoltà, fingere emozioni. E... cos'altro vuoi dire? C'è dell'odio nello sguardo di Francesco. Volevo lasciare agli ascoltatori la sorpresa, ma in realtà è così. Mi sta odiando perché non abbiamo concordato le domande. E quindi è lì che non sa più cos'altro aggiungere su questo argomento. Tommy, tu invece... Ma questa è la vera radio, la radio verità. Gli ospiti non devono essere preparati sulle domande a cui vengono. La radio che piace a noi. E certo, intanto abbiamo bloccato un po' così questo filmato che mi correggono dalla chat. Perché dici un filmato se tanto noi non lo vediamo? Sì, è uno spezzone. È uno spezzone audio, uno spezzone lo chiameremo audio. Così da ora in poi. No, io lo chiamerò filmato perché tanto che mi scapperà. Allora. Ah, possiamo dire, per introdurre comunque il prossimo argomento, che Dexter è molto bravo a fingersi quello che non è. Però lui lavora in un distretto di polizia, quindi diciamo dovrebbe essere un ambiente con detective, investigatori, gente che comunque riconosce questi serial killer. Chi finge, diciamo. Esattamente, deve essere in grado di riconoscere chi finge. In realtà lui è una specie di mascotte nell'edificio, è amato da tutti, tutti scherzano con lui, è un amicone con tutti quanti, e quindi diciamo la sua copertura sembrerebbe quasi perfetta, se non che c'è un unico poliziotto che lavora con lui che lo tiene un po' sulle scatole. Esattamente, gli sta un po' sulle balle fondamentalmente. Cioè, è l'unico che sospetta che Dexter non sia, diciamo, quello che finge di essere. Ho capito. Intanto... Tra l'altro, la cosa paradossale è che, mentre magari sono dei poliziotti magri, mingherlini, che lo trattano come un fratello, questo che ha paura di Dexter è un bestione palestratissimo, tra l'altro ex marine, quindi cioè... Fa paura, fa diciamo. Fa paura Dexter. Nel frattempo, una teoria che viene fuori dalla chat da parte del Crick è che Dexter trovi la calma nella sua finzione. E questo è anche l'unico modo in cui lui può essere vero. Questa è la teoria che giunge dalla chat che io vi declamo appunto leggendo la testa. Bene, quindi invece stavamo parlando del nemico in un certo senso. Sì, diciamo l'unico che perlomeno intravede che comunque Dexter nasconde qualcosa. E questo come si chiama? Questo è John Dox, un agente di polizia. Il palestrato, questo. Il palestrato, esattamente. Una notevole bestione. Possiamo ascoltare, penso, un filmato. Per... No, giusto, no, giusto. Lo spezzone un contributo audio. Va bene. Non possiamo neanche dire l'FVM come dire mai. Dove diavolo sei stato? Sulla scena del crimine. E questa allora? I delitti del cocainomane dell'hotel, lo spacciatore e la ragazza. Vabbè, questa coppia da cartolina non è morta per mano di un professionista, no? Questa è... opera di un bambino. Un lavoro caotico, tutto quel sangue sul muro. Sembra pittura con le dita. Tu mi fai venire i brividi, lo sai, Dexter? Sì, lo so. Mi dispiace sia così. Vaffanculo. Ok. C'è qualcosa che posso... Sì, puoi farmi avere la tua fottuta analisi su quegli schizzi di sangue. Pensavi volessi invitarti alla circoncisione di mio nipote? Non sapevo fosse ebreo. Chiudi quella cazzo di bocca e scrivi subito il rapporto. Non so neanche perché mi servi. Prendi una matita, squilibrato, e scrivi. Arriva spacciatore rivale, pugnala a morte due pezzi di merda. Spacciatore ruba droga. Bang, bang, fatto. E non mi frega niente, perché questo è quello che è successo. È lui che sto cercando. Ehi, cerchiamo un bastardo spacciatore e ladro. Hai capito? D'accordo, certo. Penso di sì. Dovrei andare sul posto. E allora vacci subito, maniocco del cazzo. Mi serve di corsa. Ci penso io, sergente. L'unica vera domanda che mi pongo è perché in un edificio pieno di poliziotti, presumibilmente tutti dotati di una profonda comprensione dell'animo umano, Dox è l'unico al quale faccio venire i brividi. Sono piuttosto sicuro di aver cancellato tutte le mie tracce. Che te ne importa di quella donna? Niente, stavo solo... Ti piace quando piangono? Ti piace quello? Qual è il tuo vizio? Stavo andando in sala riunioni. Nessuno ha chiesto la tua presenza qui in fila. Tenente, Dexter non c'entra qui. Sto ancora aspettando il rapporto sugli omicidi del cocainomane. Va a fare quello. Non importa, non voglio far arrabbiare nessuno. Può restare. Mi servirebbe il tuo apporto e discuteremo dopo il vostro caso. Che ne dite se cominciamo? Cominciamo. E questo è appunto Dox, come sì, quello abbiamo visto in due spezzoni audio. Due spezzoni audio. Due contributi audio. E appunto, invece, gli altri colleghi chi sono? Ce li puoi presentare un po' così? Sono molto variegati. Sì. Stando a Miami ci sono molti ispanici. Il capo stesso del dipartimento è una donna spagnola. Maria Laguerta, La Guerta, come viene appunto chiamata sì. In inglese. Poi c'è un altro sergente, sempre ispanico, Batista, anche lui grande amico di Dexter. Non so perché mi vive a Garcia adesso, che era molto no. Azzurro. Il sergente Angel Batista, che tra l'altro è uno di quelli appunto che più crede nella finzione che Dexter fa, in quanto gli chiede consigli addirittura per fare i regali alla moglie per l'anniversario, per dire, quindi è proprio uno dei motivi più creduloni. Ma la moglie La moglie del sergente Batista. Ok, io ricordavo che era la ex. La ex, sì, scusa, la ex. Ah, ok, no, no, perché non voglio correggere l'esperto, no, non sia detto, non sia mai, però io ricordavo l'esperto, così. Esperto, tra virgolette, no, puoi correggere quando vuoi, anzi. Quindi chiede consigli per riconquistare la ex. Chiede consigli su cose, cioè, assurde per Dexter che non riesce nemmeno a comprendere. Ho capito. Poi quindi ci sono anche... Poi appunto questo che era, diciamo, l'antagonista di Dexter. La sorella. La sorella stessa di Dexter, sorella adottiva, che lavora anche lei nel dipartimento di polizia. Che anche lei non si è mai accorta che lui... Che anche lei ovviamente non si è mai accorta delle sue, diciamo, tendenze. Uh-huh. E poi Masuka, il suo collega, diciamo... della scientifica, il capo, no? In realtà Masuka è il capo del reparto della scientifica, e che tutto dire, perché vabbè, dopo è un personaggio molto particolare dopo, che abbiamo un contributino. Bene, allora io manderei quest'altro contributo, sì, perché abbiamo adesso parlato finora di Dexter, cosa fa, sentiamo dal vivo come lui, diciamo, si trova a suo agio in una scena del crimine, sulla scena del crimine. Quindi l'assassino ha usato una spada? No, probabilmente un coltello molto affilato. Guarda gli schizzi di sangue, guarda le forme. Raccontano una storia, vedi quella grossa macchia di sangue lì, guarda. Questa è la pugnalata iniziale. La vittima maschio era in piedi qui e l'assassino ha affondato il coltello nella spalla, recedendogli l'arteria carotidea e... Vedi le gocce lunghe, spesse e abbondanti? Sì, forte. Invece lì abbiamo tracce di sangue nitide e precise. E questo può succedere solo se hai in mano qualcosa di leggero e sei veloce. Dei bei tagli precisi sul corpo, niente schizzi, niente gocce. Ordinato e facile. Questo tizio sapeva come usare una lama. Quindi cerchiamo uno chef sushi. Sì, forse uno chef sushi. Non sarebbe la prima ipotesi, ma non si sa mai. Mai. Eh sì, noi adesso decidiamo di comune accordo di mandare un pezzo musicale. Questo brano è tratto sempre dalla prima? No, non ricordo, forse da una stagione successiva di Dexter, ed è alquanto introvabile comunque. Credo sia così, perché io l'ho trovato su un sito che segnalava le musiche delle serie TV, con questo autore, Black Toast si chiamano loro, questo gruppo. La canzone si intitola Crash and Burn, però non si trova da nessuna parte, né l'album né la canzone stessa. Comunque speriamo sia così, noi adesso la lasciamo partire, buon ascolto. Un altro personaggio molto interessante, secondo me, all'interno della serie, è che fino adesso ne abbiamo parlato molto poco, è Debra Morgan, la sorella di Dexter. Ecco, tra l'altro interpretato da Jennifer Lynn Carpenter, che è una signora attrice. Che altro ha fatto? Nella serie fa questo personaggio molto particolare, abbastanza schizzato, un po' quasi sembra del... rispetto al personaggio, diciamo, finto di Dexter. Il nostro esperto che cosa ne pensa di questo personaggio? No, è un personaggio interessante, è molto particolare, anche perché comunque l'attrice è molto alta ma molto minuta, sembrerebbe anche una personcina tranquilla, molto, diciamo, educata, in realtà è abbastanza sboccata. Esatto, è una ragazza bella verace, come... personaggio interessante. Tra l'altro lei cerca sempre di entrare in dialogo con il fratello adottivo, che però comunque resta comunque abbastanza c'è della ritrosia da parte sua nel comunicare le sue sensazioni, anche perché non può dire alla sorella che lui è un serial killer. E appunto di questo tratta il filmato, perché ormai abbiamo deciso di chiamarli così, pace all'anima loro, il filmato che stiamo per mandarvi. Quindi... Ah, ciao. Ciao. Mazuka ti cercava, sta organizzando una serata al bel canto. Gli ho detto che ho un attacco di diarrea. Preferivo non saperlo. Allora, stamattina che ti è successo? Te l'ho detto. Non ti vedevo così da quando è morto nostro padre. Come puoi parlare, lo sai? Basta aprire la bocca e muoverla. Avverto Rudy che farò tardi. Deb, sul serio. Ho vomitato, sto bene. So che vuoi aiutarmi, ma mi serve solo una mentina per l'alito. Ogni volta così. Così come? Mi tieni a distanza. Sai, non mi hai ancora detto come ti sei sentito quando hai scoperto che il tuo vero padre era vivo. D'accordo, se un'emozione mi colpisce nel pieno della notte, sarai la prima a saperlo. Va bene. Fai come vuoi. E quindi. Voglio sentire, Piero, cosa hai detto di Jennifer Carpenter quando eri fuori onda. Sentiamo. Beh, ho detto che era una dischetta gnagna, per non dire altro, non essere troppo sboccati. Ecco, commento tecnico di lei, strettamente tecnico. Beh, è bellina, cioè. Sfido a dire il contrario. Assolutamente cioè, no. Cioè, però. Un bel faccino, un bel ficcio, cioè, un po' troppo magra, magari, se proprio vogliamo trovare il peluzzo. È una persona esigente, Piero. Poi, magari... chiediamo in chat cosa ne pensano, non lo so. E, dunque, quindi questo era appunto il rapporto tra Debra e il fratello adottivo. E, un altro personaggio che troviamo appunto al lavoro, abbiamo detto, è Masuka. Molto particolare. Tommy, tu cosa puoi dire di Masuka? Cioè, tra l'altro, a Masuka piace Debra. Masuka è un personaggio stranissimo. Perché? Cioè, abbastanza controverso, almeno questa è quella l'impressione che mi dà a me. Un po' strano, no? Molto strano. Chiediamo all'esperto, guarda, mi piace questa cosa di domandare. No, ora parli te, parlo sempre io, non ho capito. No, vabbè, Masuka, cioè, diciamo... tanto cosa ne pensi, non è... È abbastanza depravatino, diciamo, per essere abbastanza delicati. È abbastanza sboccato, anche, però anche... ha una sua morale in un certo senso, comunque sì. C'è un, non si capisce bene qual è, però ce l'ha. Sì, ha un suo, cioè non è proprio depravato al sì. limite, c'ha un po' di ritegno, una sua morale in fondo, in fondo, molto però. In fondo però. Ecco, per descrivere bene il personaggio abbiamo pensato di farvi vedere questo filmato. Ehi, forse è stata un'idea stupida, ma ho parlato con una prostituta. Una professionista, ti farà dimenticare la tua ex. Ma no, non è questo che intendevo. Allora non ci hai scopato, ti ha fatto un pompino. Vuoi chiudere il becco? Era una pista. Su cosa? Te lo dirò quando avrò risultati, ma... cosa sai sul feticismo per gli arti amputati? Già. Sì, certo, si chiama acrotomofilia. Ma chi la pratica preferisce un altro termine. Di solito la chiamano devozione. Lo sapevo che era il tuo campo. Non proprio. Preferisco le donne con una stretta da kung fu. In chat inneggiano Masuka dicendo che è un genio incompreso. Noi accettiamo questo punto di vista sempre abbastanza discutibile. Ah, per chi non ha visto tutto questo dialogo, è stato fatto mentre Masuka analizzava un campione al microfono. Per rendere l'idea al microfono, al microscopio. E ormai è da secoli in radio, ormai si perde con questi termini, con questa terminologia sì. tecnica da speaker svangato ormai da tanto tempo. E, che facciamo? Mandiamo musica? Sì, direi. È il momento di mandare. Tommy, mandiamo musica, dacci il via. Mandiamo musica. Allora, io mando questo brano dei Kinky, Urapan Breaks. Yeah. Ecco, io a questo punto sarò veramente ricordato come quello che prepara tutte le domande più cattive. E una cosa interessante ancora, secondo me, da guardare e da confrontare è il rapporto diverso e la, diciamo, tra virgolette, fortuna diversa che Dexter e Debra, che volendo potrebbe essere un po' considerata come una coprotagonista, forse, hanno un po' con le situazioni sentimentali, no? E con i partner che poi si trovano via via. Sì, è una domanda abbastanza interessante e abbastanza difficile, tant'è che il nostro ospite mi guarda come dire, ma io questa non l'avevo assolutamente preparata. Allora, caro ospite, caro Francesco, mi parli appunto di questo, secondo lei, quali sono le differenze tra i rapporti amorosi di Debra Morgan e quelli di Dexter Morgan? Complimenti per la pronuncia, intanto. La pronunciation. La differenza è ironica, perché fondamentalmente Dexter nel suo rapporto con la fidanzata, con Rita... È fidanzato, non l'avevo ancora no, detto. No, questo no. Spoiler! Diciamo, con la sua amorosa, nonostante lui finga, in pratica, comunque di avere emozioni di tenere a lei, almeno all'inizio della serie... Esatto. In realtà il rapporto è un rapporto fortunato, cioè una coppia abbastanza stabile. Che... E se possiamo fare un altro po' di spoiler, possiamo dire anche che il rapporto è abbastanza stabile e si mantiene attraverso il corso delle stagioni. Esattamente. Cioè nel senso, sì. Non è un rapporto duraturo. È un rapporto duraturo. Invece, ma è anche un rapporto molto strano, però. Sì, è incredibile il fatto che appunto... questo rapporto tra queste due persone così diverse si mantenga per tutte le stagioni finora trasmesse, diciamo. E invece quello di Debra è un rapporto con l'amore abbastanza tormentato, perché... Sì, lei in realtà che comunque è una ragazza come... Una discreta fiade. Bravo, Piero. Ti ho aiutato, vedevo che non riuscivi a trovare No, non trovo le parole giuste, esatto. Hai dato proprio le parole perfette per descriverla. E lei invece... nonostante sia, come dice Piero, una discreta fia, non riesce mai a trovare, diciamo, l'uomo giusto. E ogni stagione ci prova... Ogni stagione ci prova con una persona diversa. Anche se poi in realtà c'è Masuka che ci prova costantemente, ma... Sì, ma Masuka è super parte, diciamo, è... non ha destino, cioè non è proprio cosa per lui. No. Sì, infatti, questa è la tra l'altro molto sfigata, non facciamo spoiler, ma è veramente... ce li sceglie veramente male i fidanzati. In effetti, hai fatto un bello... Vabbè, non ho detto niente, solo una considerazione. Va bene, va bene. Noi adesso su Debra e i suoi rapporti, siccome sarebbero degli spoiler, non abbiamo preparato nulla. No, abbiamo glissato che su questa parte. Gli spettatori si guardano Dexter, così capiranno... Bravo, in voglia. Oh, e invece abbiamo... spacciare le serie, no? Sì, sì, dobbiamo far venire voglia, si spera, alla gente di guardare, di incuriosirsi, o comunque a quelli che invece già le guardano, di divertirsi con noi, a ricordare alcune cose particolari, delle curiosità, e così via. Dunque, adesso invece ci focalizziamo appunto sul rapporto tra Dexter e Rita, la sua fidanzata. Ce lo facciamo raccontare sì, dal primo filmato. Dagli spezzoni. Ecco. Ok. Poco dignitoso, ma devo partecipare al gioco. E dopo anni passati a... per un errore tecnico dovuto al povero me, abbiamo mandato uno spezzone che non era completo. Lo rimandiamo dall'inizio, prego. È venerdì sera, la sera delle coppie a Miami. Ogni sera è una sera d'appuntamenti a Miami. Tutti fanno sesso, ma per me il sesso non entra mai in scena. Io non capisco il sesso. Non che abbia qualcosa contro le donne. E ho certamente un'appropriata sensibilità riguardo agli uomini. Ma quando si arriva all'effettivo atto sessuale, mi è sempre sembrato così... poco dignitoso. Ma devo partecipare al gioco. E dopo anni passati a tentare di sembrare normale, credo di aver conosciuto la donna giusta per me. Debra le ha salvato la vita durante un intervento per una lite domestica. Ci ha presentati e usciamo insieme già da 6 mesi. Rita è perfetta, perché Rita è, a modo suo, disturbata quanto me. Sono in ritardo, ci metto un secondo, mi devo cambiare. Ok, d'accordo. Di direi di possiamo mandare anche la questione successiva in cui si spiega, si risponde anche diciamo al rapporto particolare, che è una domanda che ha fatto prima Tommaso, su cui abbiamo un po' glissato perché c'era appunto lo spezzone da mandare. Sei stato vago. Sono stato vago, sì. E vabbè, allora se sei stato vago ora. L'ex marito di Rita fa uso di crack, la violentava ripetutamente, la maltrattava. Lei da allora ha completamente perso interesse per il sesso. E a me sta bene. Però. E quindi questa è la particolarità del loro rapporto, cioè Rita è stata appunto divorziata da, ancora non divorziata a questo punto, dall'ex marito. Talmente in crisi che preferisce evitare quell'ambito lì. Esattamente. Cioè, la sessualità, l'intimità con il suo partner. Siccome Dexter, diciamo, ha seri problemi con quell'ambito, ad aver trovato una fidanzata di questo tipo lo aiuta a mantenere la facciata di persona normale. Interessante, interessante. Lo sapevo già, ma interessante. No, te lo sapevi, ma tante persone no. Ok. E, dunque, noi con questo, per non spoilerare troppo, termineremmo qui la parte relativa a Dexter. Quindi speriamo di avervi intrigato. Speriamo. Tommy, ti abbiamo intrigato? A me sì, però io ero già intrigato di mio, per cui forse non vale più di tanto. E vabbè, e quindi questo è quanto. Adesso noi, se ci fosse qualcuno in linea che vuole partecipare al quiz, ci può chiamare su Skype agli spacciaserie, nel caso volesse. Quindi noi adesso mandiamo un pezzo. Nel caso invece non volesse, noi continuiamo con la trasmissione, abbiamo altre rubriche da mirabolanti rubriche da curare, quindi cerchiamo di fare tutto prima di Cinemando, che ricordiamo dopo di noi viene sempre Cinemando, e nel frattempo mandiamo un pezzo che io non ho ancora scelto, quindi aspettate un po', potrei mandare, giusto per mantenervi allegri, il notturno di Chopin, ecco a voi. Siamo tornati, è incredibile ma vero, abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato. Ascoltatore un po' particolare. Sì, facci sentire la tua voce, ascoltatore. C'è un po' di ritardo sull'ascoltatore che purtroppo ora capirete. Ciao ascoltatori. Ma come ciao ascoltatori? Che voce è? È fantastico comunque. Pronto? Pronto? È che il nostro ascoltatore vuole mantenere la sua privacy. Ha appena pronunciato viva la bicicletta, per chi non l'avesse ascoltato. Bene, abbiamo in diretta da un'aula, presumo un'aula studio, Dario. Tutte. Che... Sì. Sì. Abbiamo Dario che, non potendo parlare, ci scrive e ci parla con il sintetizzatore. Quindi, adesso noi cerchiamo di fare le domande con calma e speriamo di ottenere le risposte corrette, speriamo, per lui che può aggiudicarsi la famosissima tazza degli spacciaseri, la tazza virtuale. Cominciamo con la prima domanda. La tazza virtuale che non è più virtuale. Sì, la famosa tazza virtuale che non è più virtuale. Non c'è più la stima degli autori? E anche sempre la stima dei presentatori. Bene, io farei leggere a Francesco, il nostro ospite, la prima domanda. Allora, di quale recente telefilm statunitense Raoul Bova è fra i protagonisti? Le opzioni sono A proposito di Brian, The Cleaner, Roma e Love Inc. Le dobbiamo ripetere? Roma. Dici Roma? La risposta è Roma. Sei sicuro? È sicuro. Allora, la risposta invece non era Roma. Sì. Non era Roma la risposta, mi dispiace, anche se Dario era sicuro. La risposta è A proposito di Brian. Purtroppo questa è andata. Raoul Bova recita in questa serie TV statunitense, nella quale interpreta il ruolo di Angelo, amico di Brian, okay. felicemente. Deve essere che Round Boba non è abbastanza bello per me. Ti adoro, Dario. È amico di Brian, felicemente sposato con la bellissima Nicole. Il telefilm ha resistito per 2 stagioni prima di essere cancellato definitivamente dal palinsesto televisivo. Ora, per darvi un'altra notizia, io l'ho guardata e dura ancora di meno. Se fosse Megan Fox. Dura ancora di meno Roll Bova. Roll Bova muore nella prima stagione. Questo non credo sia spoiler, perché tanto nessuno la guarda. E partiamo, procediamo con la seconda domanda per la stima, questa ormai. Attenzione, Francesco legge. Allora, da quale pianeta proviene Alf, l'alieno peloso adottato da una famiglia media americana e protagonista della sitcom omonima? Attenzione, le 4 opzioni sono Melmac, Terok, Alfa, sì, Colter. Ripetiamole un attimo per il nostro ascoltatore. Melmac, Terok, Alfa, Colter. Melmac, dice lui. Attenzione, signore, era difficilissimo, ma la risposta questa volta è esatta. Infatti ALF, acronimo di Alien Life Form, proviene dal pianeta Melmac. Schiantatosi sul tetto del garage della famiglia Tanner, viene da quest'ultima adottato. Per 4 stagioni, dal 1986 al 1990, il simpatico alieno è stato tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico. Un applauso per Dario. Bravo, Dario! E passiamo alla terza domanda, letta ancora una volta da Francesco. Applausi per Dario. Esattamente. Dopo fibra c'è Dario. Allora, da quale serie televisiva deriva Angel, nella quale un vampiro oppresso dai sensi di colpa vive una tormentata storia d'amore con una cacciatrice di vampiri? Buffy. Quindi neanche le opzioni... Non ci ha dato nemmeno il tempo. Le opzioni per la cronaca erano Buffy, Dark Angel, True Blood e Heroes. Buffy. Bravo, Dario, abbiamo... Bravissimo. Grande stima. Peccato per la prima. Era l'unica che sapevo io. E tu non la sapevi. Solo te. Ma io solo mi vedo il telefilm di Roll Bob, voglio dire. Purtroppo, a proposito di Brian, ti ha fregato. Ci vuoi dire qualcosa su... Te l'ho detto, preferisco Megan Fox. Ha anche ragione, insomma. Anch'io, in realtà. Meno male che è... Cioè, se vuoi dire qualcosa al pubblico a casa, Dario, se hai una testimonianza da portare, noi ascoltiamo. Frasi breve, mi raccomando, perché sennò... Datemela. Non ti conviene. Ma non era rivolto a me, all'ascoltatrice a casa. Ho capito, Dario, il tuo appello è arrivato, forte e chiaro, spero che qualcuna te la dia. Poi ci farai sapere nelle prossime puntate se l'appello è andato a buon fine. Alle radioascoltatrici. Ok. Allora noi ti salutiamo e andiamo... Ciao Dario, grazie. Andiamo Ciao, avanti Dario. Con un altro bel pezzo. Saluti. Ciao. Vado a studiare. Bravissimo. Mandiamo i Rolling Stones con Gimme Shelter. Opla, eccoci tornati. E prima di fare il quiz ci siamo dimenticati che avevamo un bel po' di curiosità, un bel po', insomma, qualche curiosità su Dexter, che non avevamo appunto comunicato agli ascoltatori, e siccome abbiamo questa urgenza proprio di dirle, ci preme e le diciamo. Innanzitutto ci sono diversi giochi fatti su Dexter, ci sono alcuni multimediali appunto da computer o da console, che sono in stile Hitman e Assassin's Creed. Io non gioco moltissimo, poi vabbè, gioco un po' ma non tantissimo, non conosco questi giochi. Invece Francesco, il nostro ospite, è famoso anche per essere abbastanza nerd in questo campo qui, e quindi chiedo a lui che genere di... No, questi non li ho giocati, li conosco, diciamo, di fama. Ho capito. Che tipo di sono due action, in pratica uno interpreta il personaggio Hitman e interpreta l'altro di un assassino. da caso, penso abbia preso molta ispirazione al gioco di Dexter, e Assassin's Creed, come dice il nome, è un assassino, però non ai tempi moderni, ai tempi delle crociate. Ah, ok, ho capito. E quindi questo è il primo gioco. Poi c'è anche un gioco da tavola, che ho visto, se ci sono delle carte, un tabellone, insomma. Questo non lo sapevo. Ma io ho ravanato abbastanza per trovare. Sei bravo a ravanare, Piero. C'è neanche uno per iPhone, ho scoperto. Chi ci gioca sull'iPhone, vabbè. È un'app. Un'app, appunto, l'app di Dexter. E poi c'è anche una serie Lego ispirata ai personaggi di Dexter. Tra l'altro, non so se ricordate, ma noi tipo per la ricorrenza dell'Epifania avevamo postato sulla nostra pagina Facebook un'immagine appunto degli omini Lego di Dexter, appunto, che stavano sul lettino, Dexter con il pugnale che stava per fare l'esecuzione. E, insomma, è simpatico. Poi abbiamo rintracciato delle curiosità riguardo all'autore. L'autore appunto del libro, Jeff Lindsay, abbiamo già detto che era sposato con la nipote di Ernest Hemingway, ha recitato lui stesso in Dexter, nella serie TV, come vice detective che sorvegliava una stanza d'ospedale. Inoltre abbiamo rintracciato, ora un attimo che la devo appunto aprire, abbiamo rintracciato un'intervista rilasciata a un sito italiano di un fans club di Dexter, e adesso la interpreteremo. Io farò l'intervistatore. Certo, no. Io, ok, vabbè. E tu mi fai Jeff Lindsay. Vabbè. Allora, ci si chiede spesso cosa provi uno scrittore quando un personaggio che esiste solo nella sua immaginazione prende vita. Parlando della trasposizione televisiva dei suoi romanzi, le vorrei chiedere quanto gli attori di Dexter, e in particolare Michael C. Hall, si avvicinano all'idea che lei aveva di Dexter, quanto e in che modo gli attori hanno arricchito, cambiato o stravolto i suoi personaggi, e in che modo avviene la sua collaborazione con i produttori, gli attori e il regista della serie. Prego. Ho lavorato molto spesso in produzioni televisive e cinematografiche e ammetto che non ero affatto convinto che l'adattamento di Dexter sarebbe venuto bene. Di solito non va mai così. Poi mi è giunta la notizia che Michael era stato scelto come protagonista. Il mio primo pensiero è stato che ci fosse qualche sbaglio. Io lo conoscevo per il suo ruolo in Six Feet Under, dove interpretava il personaggio di un becchino gay, che è l'esatto opposto di Dexter. Di conseguenza ho cominciato a credere che non potevo aspettarmi niente di buono da questa trasposizione, come ho già detto. Ero condizionato da esperienze precedenti che mi portavano a ragionare in questo modo. Poi il primo giorno sono andato sul set, ho visto Michael recitare e sono rimasto totalmente spiazzato. Era un altro, tutto era diverso in lui, il volto, persino il corpo. Lui era veramente Dexter, e devo ammettere che amo il modo in cui lavora sulla parte. Naturalmente alcuni degli altri personaggi sono stati lievemente modificati, ma non si poteva fare altrimenti. E comunque nessuna delle modifiche è in contrasto con il libro e il suo spirito. Solo qualche piccolo ritocco per renderli più congeniali al mezzo televisivo. E quindi c'è un po' questo stravolgimento del fatto che lui rimane un po' basito dal fatto che venga scelto un personaggio che già, cioè un attore famoso, che è, per, un altro famoso ruolo. Per un ruolo gay, sì. Becchino, cioè, nel senso, abbastanza dimesso lui, sì. E invece Dexter, appunto, io non conosco bene Six Feet Under, però avendo visto qualche spezzone devo dire che la trasformazione è davvero impressionante, incredibile. Tra le altre curiosità ho trovato che i killer rappresentati nella serie televisiva di Dexter sono riconducibili a killer reali, esistiti veramente. Ad esempio, lo stesso Dexter è somigliante in un certo qual modo a Ted Bundy, che noi probabilmente non conosciamo, però in America magari è famoso. Sì. Il killer Brian Moser, che noi non diremo adesso chi è, però chi a casa l'ha visto sa già chi è, assomiglia al killer Richard Ramirez. Miguel, non diciamo il cognome per evitare spoiler. Ah, ok, non capivo cosa mi facevi i gesti. No. Ok, assomiglia invece a Ed Kemper. Bene, anche questi nomi che comunque detti così... Non voglio dire niente, però magari... Però magari qualcuno li conosce, magari in America, magari ha letto qualche articolo. E un'altra cosa importante, un'altra curiosità, diciamo, abbastanza importante, è quella che riguarda un regista canadese. Questo regista famoso per aver girato il film Star Wars Secrets of the Rebellion, Star Wars di cui abbiamo parlato in una precedente puntata, è uno che, che non uscirà mai a questo punto, probabilmente. Ecco, e questo Mark Twitchell è stato arrestato perché lui voleva girare una trasposizione canadese, appunto sulla TV canadese, di Dexter, e pare che ispirandosi a lui abbia commesso l'omicidio di un suo attore. E lui sia stato scoperto, oltre che per una serie di evidenze, di prove, anche per il fatto che lui avesse aggiornato da poco il suo stato su Facebook scrivendo Mark, cioè lui, Mark Twitchell, ha molto in comune con Dexter Morgan. Incredibile. Ok, adesso Tommy ci introdurrà quella che è la rubrica tipica degli spacciaserie, che è appunto quella dedicata a TBBT, The Big Bang Theory. Di quale puntata parleremo? Allora Piero, questa nonostante sia la rubrica tipica che degli spacciaserie, in realtà è abbastanza ferma. Che spesso rimane più indietro. Siamo ancora alla quarta puntata della prima stagione di The Big Bang Theory. Il titolo originale è The Luminous Fish Effect, tradotto in italiano in maniera abbastanza fedele questa volta, l'effetto del pesce luminoso. Di che parliamo? In pratica in questa puntata si descrive l'arrivo del nuovo direttore dell'istituto di ricerca dove lavorano tutti e quattro i personaggi principali della serie televisiva. Cioè tutti a parte Penny, diciamo. E nel primo spezzo... Sì, tutti e quattro i ragazzi, sì, chiaramente Penny no. sarebbe stupido. Nel primo spezzo che andiamo a sentire... ci sono Sheldon e Leonard che si stanno preparando per andare appunto al party di benvenuto per il nuovo direttore. Ok, noi come al solito dalla regia lo mandiamo prima in inglese e poi noi cerchiamo di fare il nostro meglio per doppiarlo. Buon ascolto. You know, I've been thinking about time travel again. Why, did you hit a roadblock with invisibility? Put it on the back burner. Anyway, it occurs to me, if I ever did perfect a time machine, I would just go into the past and give it to myself, thus eliminating the need for me to invent it in the first place. Interesting. Yeah, it really takes the pressure off. Sounds like a breakthrough. Should I call Science Magazine and tell them to hold the cover? It's time travel, Leonard. I will have already done that. Then I guess congratulations are in order. No, congratulations will have been in order, been in order. Quindi, questo è quanto. Tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi interpretare? Farò Leonard, vai. Ecco, io ho un po' di problemi qui con la regia. You know, I've been thinking... Un attimo, perché è troppo alto il volume, poi si lamentano a casa. Andiamo indietro e partiamo. Sai, stavo pensando ancora ai viaggi al tempo. Perché hai già deciso di mollare con l'invisibilità? L'ho messo più in basso nella mia scala. Comunque, mi è venuto in mente che se costruissi una perfetta macchina del tempo, andrei nel passato e la consegnerei a me stesso, eliminando il bisogno di inventarla del tutto. Interessante. Sì, è davvero liberatorio. Sembra quasi una scoperta. Devo chiamare le scienze e dire loro di salvarti la copertina. Parliamo di viaggio nel tempo, Leonard, l'abbiamo già fatto. Immagino che poi ti facciano congratulazioni. No, mi avrebbero fatto le congratulazioni. È passato, no? E questo era il primo spezzone. Invece, nel secondo spezzone c'è appunto l'incontro con il nuovo capo che ci diceva prima Tommy. Lasciamolo partire. Eric Gabelhauser. Howard Wolowitz. Howard, nice to meet you. And you are? An actual real scientist. How was that? I can't believe he fired me. Well, you did call him a glorified high school science teacher whose last successful experiment was lighting his own farts. In my defense, I preface that by saying, with all due respect. Opla. Quindi questo è quanto. Here comes our new boss. Ecco qui, c'è Leonard che all'inizio dice qualcosa. Sei pronto? Sei pronto, lo faccio partire. Ecco che arriva. Ecco che arriva il nuovo capo, sii educato. Salve. Eric Gabelhauser. Howard Wolowitz. Howard, nice to meet you. And Uno scienziato vero e proprio. Com'era? Non riesco a credere che mi abbia licenziato. L'ha chiamato uno sannato professore di scienze e l'ultimo esperimento è riuscito, è stato fare fuoco alle proprie scuregge. In mia difesa va detto che ho iniziato girando con tutto il rispetto. Oddio. Sì, abbiamo avuto un qui pro quo, un po' di difficoltà perché c'erano diversi personaggi che parlavano, noi eravamo solamente in due, è il problema. È stato un po' complicato. Ora, ecco. Io non riesco. Oh, yeah. Cerchiamo di farlo partire per bene. Pronti? Partenza, via. Because it looks a lot like breakfast. I finally have time to test my hypothesis about the separation of the water molecules from the egg proteins and its impact vis-a-vis taste. Sounds yummy. I look forward to your work with bacon. As do I. Oddio, si è parlato della regia, sta impazzendo. Io provo. Problemi tecnici. Sì, provo a rimandarlo e poi cerchiamo di parlarci sopra noi. Ok, ce la possiamo fare. Buongiorno. Buongiorno. Sta facendo uova per colazione? Questa non è la colazione, è un esperimento. Ah, perché assomiglia molto alla colazione. Finalmente è il tempo di verificare le mie ipotesi sulla separazione delle molecole idriche dalle proteine dell'uovo e il gusto dell'impatto faccia a faccia. Sembra delizioso, no? Non vedo l'ora che lavori con la pancetta. Anch'io. Beh, questo andava un po' spiegato. Magari dovevamo dire che, essendo stato licenziato, lui comincia a dedicarsi ai lavori di casa, agli esperimenti domestici, sì. Possiamo dire, che in effetti si riducono poi a fare la colazione, quindi a fare questo. Tommy, ecco. Sei lì? Dici, cosa ne pensi? Ci sono. Cosa ti ricordi? Non possiamo mandare l'ultimo spezzone, ti avviso, perché non ce l'abbiamo. Ecco. Infatti, okay. Quando tu parlavi fuori onda del quarto spezzone, io dicevo, ma ce l'abbiamo, in realtà non ce l'abbiamo. E quindi mi dispiace, ma se lo puoi raccontare tu a voce. Allora, cerco un po' di raccontare il proseguimento della puntata. In pratica Sheldon viene licenziato, cade in una spirale di depressione sempre crescente, fino a ritrovarsi sempre rinchiuso in camera e non parla con nessuno. A quel punto l'unica soluzione che trova Leonard è quella di chiamare la madre di Sheldon. E questa infatti è la prima puntata dove entra la madre di Sheldon, che poi è un personaggio che ciclicamente ritorna anche abbastanza spesso, volendo proprio essere sinceri. E lei riesce, in modo alquanto bizzarro, questo va detto, a riuscire a tirarlo fuori da questa situazione e a fargli riottenere il posto di lavoro. Non diciamo come, perché sennò sarebbe veramente troppo spoiler, ma consiglio a tutti di guardarlo perché è veramente molto divertente. Ok, allora io direi che prima di mandare la rubrica degli spoiler mandiamo prima una canzone, in modo tale che li stacchiamo un po', facciamo uno spazio musicale tra una rubrica e l'altra. Io manderei un brano di John Litt, Long Way Home. Getting dark, you're all alone. So don't you leave. Eccoci tornati. E questo è il momento della sezione spoiler. Eccoci qui con i famosi bambini presi da Tommaso e campionati non sappiamo dove. Povero pedofilo. E cominciamo la nostra sezione con, manco a farlo apposta, l'ultimo episodio andato in onda fino a questo momento di Dexter, ovvero il 12° episodio della 5ª stagione. E, nello spezzone che proponiamo adesso c'è un dialogo tra i due killer, appunto Dexter Morgan e l'avversario di turno di questa stagione, che è appunto Jordan Chase. E non vi voglio svelare niente, perché altrimenti si capisce già quello che era successo nelle precedenti puntate. Troppo spoiler. Vado a farvelo sentire, non lo commenteremo. Ciao. Hello, Dexter. Nice to hear from you. Whatever you're thinking of doing, it's not necessary. We can work something out. Nice try. What do you mean? The unemotional approach. But it's not working for you. You're stressed. I can hear it in your voice. She really means a lot to you, doesn't she? Yes. It must be terrible going through this again. Losing your wife, the woman you loved. And now Lumen. I imagine it seems to you like some kind of terrible curse. Think whatever you want, just listen to me. I'll turn myself over to you. I appreciate the offer, but I'm afraid I must decline. Then tell me what you want. I have what I want. And the longer I stay on the phone, the better your chances of finding me. So this conversation's over. Jordan? Tick, tick, tick, Dexter. That's the sound of Lumen's life running out. Eh sì, sì, sì, sì, sì, come... Voi non potete capire, perché qui abbiamo l'esperto di Dexter, che non è in pari, e quindi faceva di tutto, si è tolto gli occhiali, ha tolto le cuffie, ha cominciato a pulire gli occhiali, pur di non stare lì ad ascoltare e guardare quello che succedeva sul monitor. Adesso poi se le rimesse, puoi stare tranquillo, sono pronto. Non ti diremo che è stato ucciso qualcuno. Ecco, chiaro, ti ammazzo io. Dai, scherzo, non è vero. Allora... La serie di cui andremo a spoilerare un po' è quella di Grey's Anatomy, e che tu non segui. Non segui. Siamo arrivati al 13° episodio, 7ª stagione perlomeno, siamo più avanti in realtà, ma questo è l'episodio a cui noi siamo arrivati, noi della radio, e non ricordo esattamente. Ah, certo, sì, ora vi lascio ascoltare. È un viaggio. What are you doing? Is that one of my boxes? Oh, don't get up. Oh, you rest. Plus, you shouldn't be lifting any heavy things. I got this. No, I'll get up if I want to. Are you moving my stuff back in? Callie. I haven't said I'm moving back in yet. We're not together. I mean, you can take those back to Mark's place. Shut up. Just shut up. You don't get to tell me that we're not together. We are together. Because I love you and you love me, and none of the rest of it matters. We are together. And if you ever sleep with anyone else again, man or woman, I will kick the crap out of you. Now, you sit your ass back down there, because that's my baby in there. I don't want anything happening to my baby. Your baby, huh? Our baby. There was a heartbeat. And it was... We're having... I still have to sit down because I'd rather rip your clothes off. I'll do the ripping. You rest. E questo era appunto il dialogo tra Callie e Arizona, che tutti voi sapete chi sono, vero? Vecchi marpioni. Allora, passiamo adesso invece a spoilerare un po' su House, l'undicesimo episodio della 7ª stagione. E in questo episodio è succede... Tu questa la segui invece, sì. Però non so se sei in pari. Sei in questa pari. È l'ultimissima? No. Allora sì. Allora l'hai vista. E qui c'è appunto Taub. Che incontra la moglie un'ennesima volta e parlano tra di loro, ora noi non possiamo spoilerare, lasciamolo dire là in inglese, prego. I thought you didn't want to see me. I didn't. Foreman called me. I didn't. know that you thought that little boy had a bleed in his head. I will kill my brother if he messes with you anymore. What do you care? Chris, you are a crappy husband. But you are a good person. Su queste parole molto toccanti e profonde si chiude anche la nostra sezione spoiler, si chiude, diciamo, un po' quella che è la nostra ultima rubrica del programma, quella che per consuetudine cede poi la linea a Cinemando, quindi salutiamo Roberto che ci sta aspettando perché noi dobbiamo dare la linea. Tommaso, io ti saluto ancora una volta, a te che sei lì a Marsiglia. Ciao Piero. Ciao Piero, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao anche a Francesco. Ciao Tommaso. A Francesco, qualcuno capirà questa, questa citazione. Un giorno forse parleremo anche di queste pazze serie, in effetti sì, queste web serie TV, perché ci sarebbe sono... anche l'esperto adatto. Sì, sì, lo chiameremo. E, che altro dire? Noi salutiamo alla prossima puntata. Non sappiamo ancora di cosa parleremo, ma tenetevi... connessi, state connessi con noi sulla pagina Facebook degli spacciaserie, gli nome spacciaserie cognome, e vi aggiorneremo almeno un minuto prima della diretta di giovedì prossimo, e vi lasciamo con un brano di Miles Davis che si intitola So What, sempre tratto dalla colonna sonora di Dexter.